Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Devo dire che è raro incontrare una ragazza con un orsacchiotto in braccio. Eppure la mia vicina di sedile in treno ha un orsacchiotto. Lo guarda, lo accarezza, sembra quasi che voglia parlarci. Ma non credo che sia nell'età ancora di giocare con gli orsacchiotti. O forse sì, non posso fare a meno di domandare. Il momento ti trovi? Beh, mi trovo, diciamo, ad essere una mamma single. Vabbè, ma sei fortunata, scusa, non c'è un uomo fra le palle che vuoi di più. Insomma. Hai bisogno di un padre per tuo figlio? No, per alcuni aspetti sì. Quanto tempo ha tu? Un anno e mezzo. È ormai grandino. Ma lo sa che no? Ma il papà lo sa, lo conosce o? Sì. Lo vede? Sì, certo. Cioè, siete separati e tu hai fatto un figlio? Sì, abbiamo fatto un figlio insieme e poi dopo 9 mesi di convivenza ho deciso di abbandonare il tetto coniugale, diciamo, anche se non eravamo sposati. Cioè, eravate due conviventi, a un certo punto sì. Tu hai aspettato un bambino, lui era d'accordo che lo facessi questo figlio? Sì, assolutamente. Quindi era una coppia a tutti gli effetti, eravate? Sì. Preparavi il corredino, la casa, come no, tutto pronto, tutto comprato. Come la gente sposata, uguale. Esatto. Lui era contento? Sì, inizialmente sì, eravamo tutti felici. Cioè, un idillio sembrava. Esatto. E ma che è successo? Come mai a un certo punto? 9 mesi poi ognuno a casa sua? 9 mesi di convivenza con un figlio. Prima non avevamo fatto alcuna convivenza e quindi l'equilibrio poi ovviamente arrivando un figlio cambia. Prima non convivevate? No. Ecco. Beh, si capisce, figlia mia, ma cosa pretendi? Cioè tu avevi una storia, a un certo punto sei rimasta incinta e avete iniziato a convivere? No, la convivenza è avvenuta con l'arrivo del bambino. Quindi tutta la gravidanza l'hai fatta da sola? No, con mammina. Con mammina? E sono poi tornata. E lui fuori di casa? No, lui aveva a casa sua. Quindi non, cioè, gli sputacchi, il vomito, il mal di pancia, niente, no, non sa nulla. No, ma devo dire la verità, ho avuto una gravidanza dove tutte queste, diciamo, problematiche non le ho avute. Vabbè, sarei stata un po' affaticata. Devo dire che è stato uno dei momenti più belli della mia vita. E beh, con la mamma che ti coccolava, stavi lì a fare la regina. Ma no, ma non è vero, anche perché ho lavorato fino a 3 giorni prima del parto, quindi... Ma i tuoi genitori che dicevano che questo figlio aveva un padre e non era presente, cosa ti dicevano? No, lui in realtà voleva essere presente, nel senso, è sempre stato presente, non è che voglio dire che non c'è mai stato presente, una donna, vicino. Non so, io per l'esperienza che ho, una persona quando aspetta un tuo figlio ti vuole sempre vicino, la notte, c'hai problemi? Per carità, lui voleva, il problema è che ero io che non me la sentivo all'inizio perché io comunque sono un po' più giovane di lui. Quanto più giovane? 9 anni. Vabbè, 9 anni che è, scusa, è una stupidaggine. Insomma. 9 anni? Ma figurati, ma cos'è 9 anni? No, veramente non è una grande differenza. Beh, ci sta un po' di gap generazionale, di idee, di esperienze vissute che magari a me mancavano. Vabbè, ma se tu lo senti dopo 9 anni... Preparati a affrontare la vita, perché 9 anni non è che sia un granché, onestamente. Oggi la gente, 10 anni è una base, ma sia in un senso che nell'altro. Ma sì. Ma sì, normalmente le donne sono molto... Dovrei cambiare, devo fare 10 anni più piccolo ora. Ma no, le donne sono molto più evolute. Le donne sono molto più evolute degli uomini. Uomo che ha 10 anni più di te è un bambino nei tuoi confronti ancora. Infatti. Ma comunque tu L'hai tenuto lontano dalla fase di preparazione del figlio. Questo è poco ma sicuro. Un po', sì, questo è vero, devo ammetterlo. Quindi tu sei ritornata dalla mamma, ti hanno fatto un sacro circolo intorno e lui è stato fuori. Sì e no. Sì e no, come lo dici? È stato il donatore del seme, fine. A cos'altro è servito? No, non esageriamo. Scusa, no, tu hai fatto una gravidanza con la mamma. Io andavo anche a casa. Sì, ho capito, però ci sono dei motivi per i quali io non... Quali sono i motivi? Non me la sentivo. Perché comunque lui è una persona molto razionale, non è una persona che sa esternare le sue emozioni, non è una persona che è riuscita a starmi vicino in quella fase. Quindi, Già ti stava sulle palle nella fase di preparazione, dillo, è così. E allora, per sbaglio è venuto un figlio con una persona che aveva una storiella e te lo sei levato dalle scatole quando hai deciso che il figlio era il tuo, fine. Quindi era già morto lui al momento del concepimento. No, come no? Il treno va. Scusami, cara, no, io non è che voglio entrare. Un po' di esperienza di vita di figli ce l'ho. Una donna che si fa tutto il periodo della fabbrica di un figlio, con un momento delicato, del primo figlio, tenendo lontana da sé l'uomo con cui l'ha concepito. Per lei quest'uomo è un donatore di sperma, fine, non è altro. Convinciti di questo. Ogni momento lo vuoi vicino. Sono convinta perché comunque non è stato proprio tagliato fuori. Sì. Semplicemente che non convivevo con lui, però ci vedevamo tutti i giorni, io spesso dormivo da lui, ora non esageriamo. Vabbè, poi avete iniziato a vivere insieme, quando è nato il bambino. Sì. E lui ti aiutava a cambiare il pannolino, a dargli la pappa, queste cose? Sì e no. No, più no che sì, più no che sì. Perché comunque lui è una persona, appunto, ripeto, abbastanza razionale, quindi alla fine... Quando ho partorito, il momento in cui uno partorisce è comunque un momento molto delicato. Sì. E in cui ci si aspetta una vicinanza da parte del partner, che si sente. Almeno torni a casa col bambino per la prima volta, ci vuole qualcuno vicino. Se ci vai da sola è un'altra scelta. Non è la vicinanza fisica, c'è una vicinanza emotiva, cioè che lui stesse materialmente vicino a me, nessuno lo contesta. Sì, cara, tu hai già detto 4 volte è una persona molto razionale. Quando una donna dice un uomo è molto razionale, vuol dire noioso, è gelido, è freddo, non mi scalda. È freddo, esatto, non mi scalda. È questo che purtroppo succede. Ha poi rovinato, perché poi ovviamente anche caratterialmente... Appunto, eravamo diversi. Vabbè, ma non era l'uomo con cui vivere insieme, dai, questo era chiaro dall'inizio. Se tu non avessi avuto questa... Io ancora non riesco ad accettare questa cosa e ancora lo cerchi. Oggi io non ho agito nelle più competenti sedi, diciamo, per regolamentare questo rapporto. Ma lui l'ha riconosciuto il figlio? Certo. E allora, il padre del figlio a tutti gli effetti. Lo so, però quando poi... appunto accade che ci si separa, o anche di fatto, nel senso che non eravamo sposati, a quel punto un padre dovrebbe quantomeno contribuire. Che fare un'azione legale perché deve, certo, questo questione di Mary Soldi, si è arrivati proprio ormai agli stracci, nel senso che cercato in quest'estate e anche tuttora, recentemente gli ho anche proposto, dato che lui si era organizzato una vacanza per Capodanno, gli ho anche proposto di venire di andare su con lui per trascorrere comunque una festività tutti insieme, al di là dei nostri rapporti. Io non voglio entrare nella tua vita personale, ma ormai rifare il quadrettino della famigliola lascia perdere, quest'uomo non esiste più per te. Se è un problema pratico e concreto, digli: guarda, ho bisogno che mi dia ogni mese 500 euro, 1000 euro, adesso non so esattamente quant'è, perché il figlio è anche il tuo, lo devi aiutarmi a mantenerlo, fine. Ma lascia perdere le festicciole assieme, ma che te ne importa più? Il bambino ormai è piccolo, non credo che razionalizzi che quello è il padre. Magari quando è un po' più grande, se gli va, se ne prenderà carico emotivo, lo porterà a spasso, lo porta fuori. Se ne accorge il bambino, devo dire. Che comunque lo cerca, quando anche a casa suonano alla porta, lui si aspetta che sia il papà, lo chiama. E allora ogni tanto deve venire a prendere il bambino e star col bambino. Ma le feste insieme, non lo so, guarda, non voglio entrare in merda. quest'uomo non te ne importa più nulla, dal punto di vista, diciamo, di un compagno per la vita è morto, è il padre tuo figlio, fine, basta, penso, no? Non lo so, ancora sono un po' dubbiosa su questo. Ma come fai a essere dubbiosa, fammi capire? Perché forse mi rimproverò certe scelte, mi rimproverò certi atteggiamenti. Vabbè, questi sono i sensi di colpa che normalmente vengono messi addosso a una donna. Pensi che è colpa tua, che in fondo non l'hai capito. Ma tu, scusa, nel frattempo ti sei fatta un'altra storia, qualcosa? No. Sei sola, single? Sì. Ma dai, non ci posso credere, ma sì, nemmeno... Sì. Non c'è una storia? No, no. Ma dai, su. No, no. Vabbè, vivi adesso in castità, nel no, ricordo... non vivo in castità, però, cioè, per il momento non ho incontrato nessuno per cui valesse la pena. Non per entrare nelle cose tue, ma irrompere la castità vuol dire avere una storia, una storiella, un incontro, qualcuno che ti accompagna. Un flirt, possiamo parlare di flirt. Ah, oh, è un flirt, oh, perfetto, vedi. Quindi, vedi, ma questo non perché devi sentirti in colpa, di capire che ormai te lo sei scaricato di dosso, non è che te con lui... Padre, non hai nessun tipo di obbligo. E questo flirt con chi è? Con un'altra persona che si potrebbe accollare tuo figlio? Non credo proprio. Perché? Ma perché proprio non è la persona adatta, anche lì c'è una differenza d'età, ma al contrario, all'inverso. Ma c'è un bambino, ti sei messa un ragazzino? Appunto. Quanti anni ha? Ventina. 20, quindi 10 anni meno di te? Non 10, io ancora non sono sui 30. Quindi quanto meno? Sono 5 anni. Vabbè, ma 5 anni sono niente. Cioè, non è un più giovane di te. Sei coetanea. No, perché scusa, se prima abbiamo detto che l'uomo di 10 anni più grande è un bambino, allora l'uomo di 5 anni più piccolo è proprio un infante. Cioè, no, infante, si chiama Toy Boy. È un giocattolino che ti serve a non pensare troppo alle tue angustie, scusa. Sì, diciamo un divertimento. Beh, c'è niente di male. Almeno te lo trovi fresco, hai trovato in altro rompiscatole con i suoi problemi. Verrà lì, certo. Sarà infogliato come un riccio. Lui ti vedrà come una MILF, quindi sarà felice. Esatto. Mi sembra un connubio perfetto. Ma questa è una parte ludica della tua vita che non deve crearti problemi. Tu pensa adesso a risolvere il problema economico, mi sembra quello più impellente. Sì. No? Direi. Scusa, non volevo darti consigli, non mi volevo fare nemmeno i fatti tuoi, ma sai, succede così, parlando, le cose vengono fuori. È vero. Sì. Vabbè, io devo scendere, spero che da qui alla prossima stazione di averti dato dei sensi profondi di riflessione e di cambiamento della tua vita. Ciao, buon viaggio. Ciao a te. Ricordate l'amico camperista, l'uomo che gira il mondo per tutta la vita, che non si ferma mai, che non ha meta, che non ha casa, che solo casualmente sale in treno quando il suo camper è in officina? Beh, eccolo davanti a me. Evidentemente ancora una volta si è rotto un semiasse, o forse no, si è comprato il camper nuovo. È la volta buona che finalmente la casa è rinnovata. Ma nuovo lo compri nuovo, oppure usato, oppure c'è un mercato, o lo personalizzi? Voglio capire che quella è la tua casa, è un po' più di un camper per te. È il posto allora, dove passi la vita. Esatto, quella è la mia casa. C'è una ditta tedesca che arreda i camper a seconda delle tue esigenze. Puoi chiedere, quando le bimbe erano piccole, avevo due letti a castello dietro in modo che potevo portarle con me, e avevo il letto matrimoniale per la mia compagna. Adesso invece che viaggio più da solo, ho il letto matrimoniale dietro, ho il bagno un pochettino più piccolino, ho aumentato un pochettino più la zona diurna del tavolo dove mangiare, eccetera eccetera. E quindi, ma la famiglia ormai non viene più con te, sono cresciute le figlie, no? Ma le incontro in giro, cioè, quest'estate ho incontrato la grande, che vive da 2 anni in Francia, sta studiando lingue, Alice, e l'ho incontrata a Parigi e abbiamo fatto Francia e Spagna assieme. Come tutte le cose mi vengono incontro, mi vengono a cercare, se sono contentissimo. Cioè loro sanno che hanno un padre che è giramondo, sempre in movimento. Esatto, sì, lo sanno, condividono, mi amano per questo e sono orgogliose, orgogliosissime. Spesso mi chiamo anche, quando ero più piccole, sono anche andato nelle loro scuole a parlare con gli allievi, addirittura anche alle elementari, alle medie, proprio per spiegare che c'è anche un modo alternativo di avere una famiglia, delle radici, amori importanti e comunque essere totalmente libero, girovago e poi torni. Sì, perché anche per loro penso da bambino è stato, non dico imbarazzante, ma difficile. Quando ti domandano a scuola cosa fa il tuo papà, loro dicono: il mio papà è in giro per il mondo con un camper. Ma perché? Perché gli piace così? Questo diceva. Hanno imparato a capire che c'ero sempre un'ora prima che loro avessero bisogno di qualcosa e riuscivo ad esserci sempre nel momento del bisogno. Poi si partiva, andavo in giro, si suona per strada, quando andiamo vediamo mille posti. Ma anche la tua compagna è, diciamo che è molto comprensiva, perché ormai c'è un uomo che gira per il mondo, lo vede ogni tanto. Allora, la mia compagna, siamo stati assieme per 11 anni fino a che lei ha deciso di essere più sedentaria, però avendomi conosciuto per quello che sono ha detto: tu vai, chiaramente ci siamo ufficialmente separati, però è la mia migliore amica, cioè io torno a casa da lei, torno dalla piccola che vive ancora, dalla piccola, Greta a 15 anni, torno da loro, non è un problema questo. Il treno va. Senti, parlami un po' della tua vita alternativa a questo punto, perché la famiglia è sistemata, tranquilla, ognuno fa le sue cose, ma te che ti giri per il mondo, storie tue poi ce le hai, serie, ti capita, oppure come il marinaio, ti fermi al porto e poi riparti. Parli di donne oppure di... Ma di qualunque tipo. Amicizia. Animali da cortile, quello che è, comunque in qualche maniera ogni tanto sarai con qualcuno. Vabbè, le cose più intime che mi capitano, più intense, sono quando trovo altri viaggiatori e allora posso essere... aver passato la notte sotto la moschea blu di Istanbul e sono in partenza e trovo un viaggiatore o una viaggiatrice che mi dice: cavolo, non so come fare, devo andare a Barcellona, cioè a 5.000 chilometri. E ho detto: guarda, io non ho una meta, è il viaggio la mia vita. E quindi magari stiamo assieme settimane. Andate a Barcellona, così decidi che può essere bello andare. Decido che può essere bello passare del tempo con questa persona che ho incontrato e chissà perché era lungo la mia strada e chissà chi è. Poi può capitare che non nasca un feeling talmente elevato da essere compatibili. Ma però è passato successo... 2 settimane, in qualche maniera è passato 2 settimane. Esatto, è successo raramente che non nasca qualcosa di bello. Se sei un uomo, un'amicizia eterna, ci aiutiamo, mi aiuta anche a portare degli strumenti, dividiamo le mance e tutto quanto. Se una donna, molto spesso capita che diventa anche amante oltre che amica, e ho questo tipo di amicizia in tutta Europa, bene o male. Senti, ma ti sei mai domandato che alla fine non è che potrei sempre per tutta la vita fare questo tipo di attività? Verrà un giorno in cui non ce la farei più. Ecco, a quel punto dove butti l'ancora? Dovrei deciderti, da qualche parte dovrei fermarti. Ma negli anni sono riuscito a comprarmi un appartamento che è qua vicino a mia madre, vicino a mio fratello. Ma dov'è, in che città? Vicino a Milano, un paese che si chiama Arese. Sì, ma tu, dopo aver girato, diciamo, per miliardi di chilometri in un camper senza meta, vedi già una tua vecchiaia dentro un appartamento a Rese? Io lo vedo che a 70 anni, con l'artrite o quello che è, sarò su una piazza a suonare. Se non ce la faccio, non ce la faccio, però mi vedo sempre in movimento. Il giorno che mi renderò conto che non sarò più in grado di badare a me stesso sulla strada, nel camper, eccetera, avrò un posto dove tornare. Vabbè, alla fine potresti anche come fermarti. Tutti, certo. Certo. Nessuno ci pensa, solo che tu hai fatto una vita molto diversa da quella che fa ognuno di noi. Sto immaginando, se può pensare una persona che si alza la mattina e dice: oggi posso andare dove voglio, dove mi pare. Esatto. Pigli e parti, vai dove ti pare. È bellissimo. sai cos'è la forza della mia scelta che ho fatto proprio giovane, avevo 18-19 anni, e che sento e che vedo negli occhi degli altri? È la mia capacità di vivere nel mezzo della vita, le persone, quelle emarginate che vivono sotto i ponti, i pancabesse, così, che mi invidiano tantissimo, il fatto che ho modo per mangiare, per dormire al caldo, e però dicono però anche noi siamo liberi così. E poi ho tutti gli altri, quelli che lavorano in banca, che sono miliardari, così, che dicono: cavolo, io ho tutti questi soldi, ma la tua libertà, io ho libertà di scelta quotidiana e il giusto per mangiare, per vestirmi, per essere felice, che ti devo dire, cioè, non ho grosse pretese, non mi interessa niente di avere una Ferrari oppure un orologio, che non so neanche i nomi, quelli da... Nemmeno penso che la tua vocazione sia dormire sotto un ponte abbracciato a un cane in mezzo alla sporcizia. No, assolutamente, no, io amo il mio letto, amo dormire al caldo, amo potermi fare per mangiare, avere il frigorifero con dentro la mia verdura, le mie mozzarelle, le mie cose da mangiare. Vabbè, ma tu la differenza tra te è un pancabestia, che tu fai un lavori a tutti gli effetti, certo, fai il lavoro serio. Sì, non sono assunto, però faccio un lavoro, io mi porto il lavoro dietro, mi porto la casa dietro, mi porto gli affetti dietro, sto bene con me stesso, sono sicuramente il migliore amico che ho, con tutti i chilometri che ho fatto con me stesso, a voglia, se mi fosse antipatico sarebbe la fine. Senti, ma tu hai una residenza, ufficialmente sì, hai un documento, sì, con una residenza. Sì, ho un appartamento ad Arese. Quello lì, quella è la tua residenza. Sì, quindi esatto, anche questa differenza, sei rintracciabile. Mi hai detto l'altra volta che quando ti fermi in un paese straniero chiedi il permesso di poter suonare per strada laddove serve, quindi sei in regola. Dipende se è una città molto molto grossa, sì, se è piccola no, mi metto per strada e suono e senza permessi. Ti hanno mai fatto storie le polizie locali, i vigili locali, le autorità? Devo essere sincero, solo in Italia. Solo in Italia, per questo uno dei motivi per cui l'ho frequentata così poco. E dov'è successo in Italia che ti hanno scocciato? T'hanno bloccato? Ero a Bologna, suonavo nella piazza tranquillamente, e però ti parlo di tantissimi anni fa e non c'era ancora modo di... Cioè io ho provato ad andare al comune a chiedere, come in tutta Europa, gli ho chiesto: suono in piazza oggi, sono musicista. Lui fa: cosa sei? Cioè, sono musicista. Mi fa: e allora volevo sapere per suonare in piazza. Ah sì, vai su all'ufficio tot. Vado lì, aspetto un'oretta, arriva uno: chi sei? Cosa vuoi? Sembra tipo la cosa di Benigni e di Troisi, no? Al terzo ufficio arriva uno tutto serio, cravatta, giacca, e mi guarda e fa: allora, tu hai detto che sei musicista e vuoi suonare in piazza, devi aprire una partita IVA fittizia. Non ho capito, cioè, per tutto cosa vuol dire fittizia, non ho capito. E mi fa: no, perché poi, cioè, sulle mance, sui guadagni, volevano prendermi, non so, il 50% delle 20.000 lire che facevo quel giorno lì. Non ho capito. Io, guarda, 200 chilometri c'è Innsbruck, ciao, vado. Sei andato a suonare a Innsbruck? E lì sono stato in comune, ho chiesto, ho detto: certo, sì, foto, badge, il musicista mi hanno fatto scegliere la zona, ho pagato una tassa ridicola, tipo un franco, e basta, mi sono messo lì e beato, pacifico, tranquillo. Questa è la differenza. Vabbè, guarda, per oggi ti lascio che devo scendere. Intanto grazie, intanto in bocca al lupo per il nuovo camper, e poi ci rincontriamo qualche volta nei tuoi passaggi in treno fra un viaggio e l'altro, mi racconti il resto della storia. Ciao. Molto volentieri, ciao. Il treno va. Ed ecco l'audio messaggio, finalmente una ragazza giovane, quello che mai avrei immaginato che fosse il pubblico abituale di questo signore che viaggia in treno con i capelli bianchi e aspetta che in qualche stazione, quella finale, ci sia una donna ad aspettarlo, perché questa donna probabilmente è vestita di nero, ha una falce tra le mani. Ma adesso non voglio tediarvi, è semplicemente un pensiero funesto. Invece no, è divertente, allegra, è una bella storia. Una storia che dovrebbe far sorridere, dovrebbe mettere allegria. Ma ancora una volta, alle donne non basta mai. Caro Gianluca, circa un mese fa le mie colleghe mi fanno notare che da qualche giorno un bel ragazzo passa sempre davanti al negozio nel quale lavoro e mi guarda sorridente. Pensa che io non ci avevo mai fatto caso. Dopo una settimana di appostamenti e sorrisi, me lo ritrovo che comincia a camminarmi accanto, parlandomi come se fosse la cosa più naturale del mondo. Solo qualche mese prima mi sarei irrigidita e avrei accelerato il passo, piena di imbarazzo. Invece, per la prima volta, decido di rimanere calma e naturale. In fondo il tipo non è per niente male. Mi dice che lavora in un negozio di sport nella stessa mia via e che da quando mi ha notato non può fare a meno di passare ogni giorno davanti al mio negozio per osservarmi. Arrivato il momento di salutarci, mi guarda dritta negli occhi e mi dice: «Tu mi piaci molto». Lì per lì decido di non lasciarmi impressionare e con un sorriso lo saluto. I giorni passano e noi ci vediamo spesso, andiamo a mangiare insieme durante la pausa pranzo, parliamo, ci divertiamo, usciamo insieme e in maniera del tutto naturale ci ritroviamo a letto insieme. Tutto procede magnificamente, il suo essere diretto mi piace particolarmente e contagia anche me. Così un giorno decido di andarlo a trovare al lavoro e di fare io quello che lui ha fatto per me tanti giorni. Rimango a guardarlo dalla vetrina del negozio mentre lavora e scopro che l'unica cosa che sento dentro di me è la stessa frase che mi disse lui alla prima uscita: «Mi piaci molto». Perché non dirglielo, mi domando. In fondo anche questo fa parte del comportarsi naturalmente, no? Così entro nel negozio, lui mi nota e mi accoglie con un sorriso dicendomi se voglio provare un bel paio di scarpe nel frattempo che lui finisce. Decido di prendere tempo e accetto. Dopo un'ora esco dal negozio con lui, tutta contenta e con le mie belle scarpe da ginnastica nuove ai piedi. Quale momento migliore per dirgli quello che provo? Così mi volto, lo guardo dritto negli occhi, ma al posto di dirgli quelle tre semplici parole, sento me stessa pronunciare un'altra frase. «Queste scarpe mi piacciono molto. Quando andiamo a correre insieme?» Lui fa una smorfia, accenna ad un mezzo sorriso e poi mi dice che ora non può, perché deve andare a casa. Io non capisco, ma sempre spinta dalla filosofia del vivi e lascia vivere, gli dico che va bene. Ho detto alle donne non basta mai, anche agli uomini non basta mai, sono degli incontentabili terribili nel campo delle relazioni affettive. Però questa ragazza aveva una storia bellissima, un bel ragazzo, una storia che sembra presa da un film, passa e ripassa davanti alla sua vetrina, si vedono, si incontrano gradualmente con una lenta e lunga sfumata dalla vita quotidiana e tediosa al mondo fantastico di un grande amore. Finiscono a letto, si amano, è una bella cosa, può essere contenta, tranquilla, no, deve andarlo a stanare. Va anche lei nel negozio di lui, ma mentre lui era andato nel negozio di lei con intenti romantici, era passato e ripassato, l'aveva guardata, le aveva sorriso, le aveva detto «mi piaci», lei è andata a comprare le scarpe e poi si lamenta, e poi le sembra strano che lui, quando ha detto «andiamo a correre assieme», si è un po' rabbuiato e ha detto «andiamo a casa». Ma perché devi andare a correre con una donna che hai scelto per andarci a letto? Ci sono le donne con cui si corre e le donne che si amano. Ora, da quel momento sono passate 2 settimane e indovina un po', il bel ragazzo è sparito. Io sono ricascata nei soliti stressanti e inutili interrogativi che volevo proprio evitare. Ma cosa è successo? Ho fatto qualcosa che non dovevo fare? Ho detto qualcosa che non dovevo dire? Si è reso conto che mi ha fatto pagare troppo poco le scarpe e ora è nei guai con il suo datore di lavoro? Scherzi a parte, non riesco proprio a capire. Ho provato a cercarlo. Sono passata davanti al suo negozio e lui mi ha fatto cenno che mi avrebbe chiamata più tardi, ma nulla. Così ho insistito e l'ho chiamato io. L'unica cosa che mi ha detto è che se l'ho chiamato per chiedergli quando andiamo a correre insieme, non sa proprio dirmi quando. Di fronte a tanta assurdità, ho deciso di smettere di colpevolizzarmi. Per una volta che ho lasciato andare le cose senza tensione, senza giochetti e strategie, ecco com'è andata a finire. Mi sembra paradossale, ma se ripenso al suo sguardo mentre gli dicevo di andare a correre insieme, è come se dentro di lui fosse scattato un campanello di allarme che lo avesse fatto sentire ancora più nudo di quando eravamo a letto insieme. E pensare che io a correre non ci sono mai andata, così come non mi ero mai comportata in modo così naturale con un ragazzo, ma con lui ci stavo prendendo gusto. Ora mi ritrovo qua, a metà strada, ferma e sola all'improvviso, con addosso un paio di scarpe immacolate che non so se mi porteranno mai da nessuna parte, e quella frase in gola che forse avrei dovuto dire ancora più esplicitamente. Più della risposta che vorrei da te, c'è solo la domanda che mi assilla. È davvero così difficile mantenere con un uomo un contatto sincero che non sia sesso? Ma che vuol dire un contatto sincero? Cosa c'è di sincero nel rapporto fra due persone che si amano, che fanno l'amore? Nulla può esserci di sincero. La sincerità spegne ogni fiamma. La sincerità ci mette di fronte alla realtà. L'amore, la passione, la storia che avevi vissuto con questo ragazzo era bella perché era in confini indecisi, indefiniti, al di fuori del mondo in cui tu e lui vivevate assieme. È un po' come quella storia un po' kitsch, però ha segnato la nostra fanciullezza, mi piace incontrare Marlon Brando e Maria Schneider dentro un appartamento a Parigi, soltanto per amarsi, soltanto per folleggiare, soltanto per imburrarsi come fossero fette biscottate, e poi basta, fine, la cosa non poteva andare avanti così. E così il tuo bel ragazzo non sa che farsene di una che passa al suo negozio, compra scarpe e vuole andare a fare corse nel parco. Per lui era fantastica quella storia d'amore e tu l'hai voluta trasformare nel preludio di un fidanzamento. A lui non andava di fidanzarsi con te. È tutto qua. Tu cerchi un fidanzato, lui cercava un amore.